Sì, buonasera a tutti, io sono Andrea di Fornace di Comitato No Expo. Fornace era un centro sociale che è stato sgomberato alcuni mesi fa a Roa, che diciamo, è andato avanti a fare attività politica e sociale per più di 3 anni nella città di Roa. Noi fin da subito abbiamo incominciato a fare un lavoro sul nuovo polo fieristico di Ropero, e a partire da quello poi abbiamo concentrato le nostre attenzioni sulla questione Expo quando ancora il progetto era in embrione, perché fin da subito ci è sembrato che fosse un elemento che poteva essere la chiave di volta della trasformazione non soltanto della città di Milano ma di un territorio molto più ampio, e per cui era il caso di approfondire fin da subito le dinamiche che poi di fatto seguono quelle che sono state le dinamiche di costruzione, realizzazione e gestione del polo fieristico di Ropero. Ovviamente questo ha dato molto fastidio, l'esito è stato questo sgombero, noi abbiamo fatto altre occupazioni, sono seguiti altri sgomberi, attualmente stiamo cercando uno spazio, faremo altre occupazioni, andremo avanti così finché insomma non riusciamo a ritornare al punto di avere uno spazio e di portare avanti il nostro lavoro sul territorio. Noi diciamo che dal momento in cui abbiamo incominciato a ragionare su Expo abbiamo subito voluto lanciare la proposta di un comitato, perché la lettura che davamo della questione Expo era il fatto che Expo è innanzitutto un acceleratore di grandi opere, cioè con la scusa di Expo tante grandi opere che già erano previste, parliamo di TAV, Brebemi, tangenziale esterna, l'elenco potrebbe essere 10-15, ma ci fermiamo qua. Ecco, tutte queste opere entro il 2015 devono essere pronte. Ovviamente tutte queste opere hanno delle opposizioni più o meno grandi sui territori. Se Expo accelera queste grandi opere, noi dobbiamo dall'altra parte cercare di mettere in rete tutte le conflittualità presenti sui territori e cercare portare un unico conflitto insieme contro quella che è un'idea del territorio, di uso del territorio. Per cui prima cosa ci siamo detti, il comitato è necessario per mettersi in rete con gli altri soggetti. Seconda questione, Expo porta con sé la cementificazione. E secondo noi non esiste un Expo migliore possibile, un'altra Expo possibile. Qualcuno dice questo slogan. Per noi questo non esiste, da qui anche il concetto di No Expo, il nome No Expo. Non esiste perché l'obiettivo non è l'evento del 2015, lo diceva bene prima la docente universitaria del Politecnico di Torino. L'obiettivo non è quell'evento lì, l'obiettivo è tutto quello che ci sta attorno. Quindi cosa porta con sé l'Expo? Ad esempio sul nostro territorio, parlo soltanto di Ro e Pero, sono previsti circa una decina di nuovi grandi alberghi, e non sto parlando di quelli di 10 camere, sto parlando di alberghi di oltre 500 camere, due grattacieli alti quanto il Pirellone, quindi diciamo una serie di alberghi, ma non soltanto, perché poi attorno ci sono anche tutta un'altra serie di ragionamenti da fare, ad esempio sul discorso della casa, del valore delle case. Di fatto si costruisce dappertutto dietro a questa cosa intanto ci sta la perdita di territorio verde e di qualità della vita delle persone che stanno su quel territorio. Dall'altra parte si insinuano in questi progetti di edificazione che spuntano come funghi, si insinuano anche le mafie che gestiscono da una parte gli appalti, infiltrandosi negli appalti, dall'altra mano d'opera, perché c'è il lavoro nero, la fiera di Ropero è stata costruita con il lavoro nero e quindi con tutta manovalanza di questo tipo, e attualmente tutti i servizi della fiera vengono gestiti con il lavoro nero. Quindi è un sistema finalizzato alla cementificazione, ai grossi guadagni delle famiglie imprenditoriali che tutti conosciamo che sono sulla bocca di tutti in, in questo periodo, e poi anche delle, delle mafie che gestiscono dal Movimento Terra la manodopera e agli appalti. Gli altri elementi su cui abbiamo ragionato sono quello della città vetrina, ad esempio. Se ne parlava anche prima rispetto al discorso di Abba, ma noi abbiamo avuto per alcuni giorni la prova di che cosa sarà Expo nel 2015. Cioè, quando erano qua presenti a Milano gli ispettori del BIE, vi ricorderete che cosa era diventata la nostra città. Quindi venivano cacciati i migranti dalla stazione centrale, i barboni non dovevano vedersi, per cui non si capisce bene dove siano finiti per quella settimana lì, e via dicendo. Dentro questo discorso sta anche il fatto che gli spazi sociali nella città vetrina non ci devono stare, così come i migranti che danno fastidio di giorno, perché comunque c'è un forte attacco razzista, poi sono gli stessi che lavorano nei cantieri in nero e che quindi, diciamo, non devono avere visibilità. Rispetto all'Expo, noi continuiamo a portare avanti il lavoro sul territorio, ora lo stiamo focalizzando sulla questione soprattutto relativa al sito. Vi racconto solo questo rispetto al nostro territorio, ci sarebbe tanto da raccontare, ma credo che questo sia un fatto emblematico. Allora, l'Expo verrà realizzata all'interno di capannoni che verranno costruiti in un'area agricola adiacente al nuovo polo fieristico di Ropero. Quest'area è di circa 1,5 milioni di metri quadrati e da qui al 2015 verranno costruiti questi nuovi capannoni. Dopodiché questi capannoni verranno abbattuti e lì sorgerà un nuovo quartiere. Avete visto adesso, fra l'altro, c'era in ballo la discussione di 700.000 nuovi abitanti a Milano, quindi con, si parla di cambiare gli indici di edificabilità, quindi lì si parla di un quartiere bello sostanzioso. Andiamo a vedere chi sono i proprietari di queste aree su cui si faranno i capannoni di Expo. Sono Cabassi e La Fiera, sostanzialmente. Poi c'è un altro 5% che è di Poste Italiane, ma diciamo la cosa è rilevante. Il grosso sono di Cabassi e della Fiera. Allora, si parla di energia per la vita, nutrire il mondo, di fatto avremo un Expo con circa 29 milioni di visitatori in 6 mesi, e intanto contemporaneamente continuerà a tenersi La Fiera, che già adesso è assolutamente ingestibile dal punto di vista del traffico. Se siete passati di lì nel momento in cui c'era una fiera, vi imbottigliate e non uscite più. Però dove si fa? Non si fa dentro la fiera, si fa in un'area agricola che è accanto alla fiera. Per la speculazione edilizia, di fatto, di fiera stessa e del buon Cabassi. Quindi questo è un esempio di quello che succede sul territorio, ma poi le ricadute, appunto, lo dicevo, sono tantissime. Noi non riusciamo a stare dietro a capire dove sorgerà il prossimo albergo, perché ovunque c'è un'area dismessa sul territorio, la proposta è che lì ci faranno un albergo. Fra l'altro abbiamo anche dei grossi problemi, poi, perché nel frattempo chiudono gli ospedali, non ci sono i soldi per le scuole, e si sta tentando da parte delle amministrazioni pubbliche una contrattazione di volta in volta sul singolo piano integrato, ma senza una programmazione che riguarda l'intero territorio. Quindi veramente Expo per il nostro territorio significa dare in mano la città a chi vuole speculare, a chi vuole cementificare, e togliere diritti ai cittadini. Su questo la nostra battaglia andrà avanti ancora. Grazie Andrea.